piena di tossici, distruggono menti, mentre la radio passa musica indecente. Innamorati si baciano dove stavano i lerci, pazzi d'amore tutti, tutti con visionari e pistole, sexy bombe, pompe per money, costruiscono il regno del denaro, mentre colletti bianchi spruzzano profumo avaro, cuori rotti si cacciano giù pastiglie come polvere da sparo, sipario di sangue nello show dei nuovi dei, non ho armi, disarmato, tra cosce tette e cazzi torturati, rimarranno soli e dannati, rimane sognata l'arma del tuo bacio, ribelle amore, medicina contro il cappio, il mostro rintocca la sua condanna, indicando il suo braccio, osanna lago, mentre il lago imperterrito sospira, il cigno, il vento, l'ego, dimenticate l'erciume, denso in un angolo, il tossico, sporcizia il suo pungolo, il pensiero trova un angolo di libertà, ritrovo il pensiero, non ho armi, disarmato, cammino, cecità della guerra e sterminio, non si fermerà finché non avrà tutto, ma in vero, possedendo niente, solo un sussulto, mentre il sangue del suo passaggio si mischia al paesaggio, appare notturno il miraggio di psiche. Ho trovato una pistola in filo, un solo proiettile dentro il tamburo, la fine pensiero rettile, suonando, l'ultima ora giunge, al ricamo la fine del filo e poi niente. Ho trovato una pistola in filo, un solo proiettile dentro il tamburo, la fine pensiero rettile, suonando, l'ultima ora giunge, al ricamo la fine del filo e poi niente.